in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei giornali internazionali. Anche questa settimana ci ho provato, ma è difficile, qualche piccola notizia non legata al coronavirus c'è, ma non è sicuramente sulle prime pagine dei giornali. E poi, soprattutto, questo è il tema di cui è giusto, è opportuno e credo anche sia per tutti una necessità occuparsi e approfondire, proprio perché non si parla più di epidemia, come sappiamo, ma di pandemia. E questa è una rassegna stampa internazionale e per questo vi dico, tutti i giornali internazionali parlano di questo. Comincerei, proprio per dare l'idea che ormai la parola giusta è quella pandemia, dalla copertina dell'Economist di questa settimana, che si intitola The Next Calamity, quindi la prossima calamità, il Covid-19 nei paesi emergenti. Il tema è, lo abbiamo detto spesso, che paesi con innanzitutto l'India, 1,3 miliardi di persone, la più grande democrazia al mondo, ma anche tanti paesi africani, per ora, secondo i dati ufficiali, non sono ancora stati colpiti dall'epidemia, ci sono solo centinaia di contagi e poche decine di morti, ma c'è un doppio problema. Primo, la trasparenza e la rilevazione dei dati e poi comunque la capacità di rispondere con sistemi sanitari che quasi certamente, soprattutto in alcune parti dell'India e in alcuni paesi africani, non sono all'altezza. Quindi questo è proprio la copertina dell'Economist nella edizione internazionale. In quella invece che viene distribuita soltanto nel Regno Unito c'è un approfondimento sulle mosse del governo di Boris Johnson e in particolare del suo cancelliere dello scacchiere, che ha proposto un piano come keynesiano, proprio possiamo dire, ma qui va ricordato che questo è un governo conservatore. Quindi c'è questa non contraddizione, però sicuramente va rilevato questo fatto che in queste crisi vanno per forza attuati, lo scrive anche l'Economist, dei piani che diciamo non sono propriamente dei piani da economisti liberali, sono più appunto dei piani da economisti keynesiani, che in generale piacciono di più ai governi più di centrosinistra che non a quelli conservatori. A proposito di spiegare, abbiamo detto, l'importanza dei dati, la trasparenza, e chi meglio di noi italiani sa che poi questi dati, innanzitutto, forse se si tornasse indietro potrebbero essere raccolti in modo diverso, potrebbero essere riassunti a mano che arrivano dalle regioni in modo diverso, rielaborati in modo diverso, perché purtroppo i dati e le statistiche da soli non dicono sempre tutto, vanno letti. E quindi vi segnalo questo articolo su Vox Europe intitolato "Spiegare l'epidemia di Covid-19, perché i dati vanno presi con le molle". È molto interessante perché questo tema di come affrontare i dati, la massa di dati che ci arrivano dai sistemi sanitari nazionali, dal nostro Istituto Superiore di Sanità, come da quelli di altri paesi, e anche i dati, per esempio, sulle reazioni dei vari pazienti alle terapie che si stanno tentando e naturalmente a come classificare le persone che muoiono, se per morte per coronavirus o per cause o perché il coronavirus ha scatenato altre malattie o ha peggiorato delle malattie preesistenti. Sempre a proposito di conseguenze economiche del coronavirus, vi segnalo un articolo pubblicato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco di Francoforte, con un approfondimento sulla Volkswagen, che è forse la casa automobilistica più simbolica per l'intera Germania, è rimasta, rispetto magari ad altre che hanno fatto alleanze, è rimasta profondamente tedesca, anzi ha fatto acquisizioni fuori dalla Germania e... la dichiarazione importante di Jürgen Stackmann, che è un membro del consiglio di gestione di Volkswagen, è che la produzione potrebbe essere riavviata in estate e dice Questo è un tema, anche questo, che ricorre spesso, e fatto salvo come condizione necessaria e sufficiente che le persone devono lavorare in sicurezza, però questo è un leitmotiv, per esempio, di Donald Trump: la cura non può essere peggio della malattia, cioè fermare la produzione per un tempo troppo lungo potrebbe appunto essere poi veramente controproducente. E da qui la dichiarazione che questa situazione non deve e non può, ma questi sono auspici, purtroppo al virus non si comanda, potremmo dire a questo autorevole membro del consiglio di gestione di Volkswagen, dice lui alla FAZ, l'attuale situazione non può andare oltre l'estate, la società e l'economia non possono resistere. Sempre per restare in Germania ci sono naturalmente tantissimi consigli sui quotidiani, ma del resto come su tutti i quotidiani, sulle differenze tra le varie mascherine, che sono difficili da trovare ovunque e anche in Germania, su come applicarle correttamente e su quali sono adatte alle persone che devono svolgere semplicemente una vita normale, uscire per le commissioni importanti, non stiamo parlando di chi lavora negli ospedali o sulle ambulanze o in qualunque modo venga per forza di cose in contatto con persone ammalate o contagiate, ma appunto di noi normali persone. Di questi consigli sono pieni i giornali. Sempre legato al coronavirus, un altro aspetto viene dalla Francia. Le Figaro racconta di questa lunga fila d'attesa davanti all'ospedale universitario di Marsiglia perché la direzione sanitaria dell'istituto è anche qui. Giudicate voi, però certo che non è la prima volta, ricorderete qualche settimana fa, non è la prima volta che si fanno annunci da parte di ricercatori, ricorderete qualche settimana fa l'annuncio che venne da Israele sulla possibilità che il vaccino avesse i mesi contati, cioè potesse essere fatto in fretta. In realtà poi tutti ripetono 12, probabilmente 18 mesi. Quindi questi annunci naturalmente scatenano grandi aspettative e così l'annuncio di questo ospedale marsigliese che ha deciso di provare un mix con questo farmaco che in generale viene usato per curare la malaria e poi però un mix di questo farmaco con un antibiotico, l'azitromicina, e pare che appunto questa sperimentazione abbia successo. In realtà poi il ministro della salute francese ha annunciato che sì, verrà fatto un test su larga scala, ma che non bisogna farsi prendere da false speranze. Poi naturalmente c'è tutto il tema, abbiamo parlato dell'India, dell'Africa, poi c'è tutto il tema del Sud America, perché se alcuni paesi come l'Argentina, ed è su tutti i giornali di questa settimana, da Clarín alla Nación, e anche su quelli economici naturalmente, stanno dando i dati del contagio e non vogliono assolutamente minimizzarlo, c'è poi invece il Brasile, dove il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, continua a dire che in realtà, come abbiamo sentito purtroppo, tra il 20 di febbraio e la fine di febbraio, poi basta. Anche qui in Italia, persino da alcuni scienziati, che il Covid-19 fosse poco più grave di un'influenza. In realtà, sottolineo, tanto per avere dei dati su cui ragionare, siccome il numero dei morti per influenza l'anno scorso era stato di circa 8.000 e in questi giorni abbiamo superato gli 8.000 morti e siamo in marzo, non vale più per favore neanche l'argomento che il Covid fa più o meno tanti morti come quelli dell'influenza. E a proposito di questa situazione del Brasile, che peraltro ha un'organizzazione federale, quindi i governatori dei vari stati si stanno diciamo ribellando a questa linea di Bolsonaro e stanno prendendo misure indipendenti, vi segnalo da Internazionale un articolo molto interessante tradotto da The Atlantic, scritto da Letizia Duarte, che fa un ritratto di Olavo de Carvalho. È un brasiliano trapiantato negli Stati Uniti, ex astrologo, ex comunista ed è in realtà diventato il teorico dell'ideologia di estrema destra del presidente Jair Bolsonaro. Detesta soprattutto la sinistra, come a volte accade agli ex comunisti, e i giornalisti. E sicuramente ricorderete il gesto dell'ombrello fatto da Jair Bolsonaro subito dopo aver annunciato ai giornalisti che era negativo al tampone sul coronavirus. Ultima notizia, vi avevo promesso qualcosa che non riguardi il coronavirus, è la Siria. Sempre su internazionale, Le Monde ha tradotto un reportage intitolato L'ostinata sopravvivenza degli sfollati di Idlib, perché sono centinaia di migliaia di persone in fuga dall'offensiva del regime di Damasco. Anche la Siria, peraltro, sta registrando alcuni casi di Covid-19 ed ha attuato alcune restrizioni. E però appunto loro in questo momento naturalmente c'è anche questo fronte su cui deve combattere il regime di Assad, cioè il fronte dell'epidemia, però la tregua che è stata raggiunta poche settimane fa è fragile e a Idlib continuano a esserci scontri, chi può, chi riesce scappa, anche se poi sappiamo che la prospettiva è magari arrivare in Turchia e poi però cercare di andare verso l'Unione Europea, essere bloccati al confine con la Grecia. Quindi questa situazione è sicuramente, non dimentichiamoci mai appunto che ci sono anche, abbiamo fatto dei numeri impressionanti, 30.000 casi negli Stati Uniti, ma ricordiamoci che qui parliamo di centinaia di migliaia di persone che stanno cercando di sopravvivere e la minaccia è quella di morire durante la guerra civile. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.